Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia. Eccoci qua, buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola. Allora, questo è Padri Eterni, parliamo ai papà, parliamo di papà, io un padre assente, Matteo un padre presente, ma sono molto contento perché questa settimana è uscito il libro di Matteo Bussola, quindi ha fatto centinaia di presentazioni e non è mai a casa. Finalmente anche Matteo è un padre assente. Sperimento la lontananza. È dura? Sì, è tosta anche perché io ero abituato a stare sempre a casa come una pianta e quindi questo continuo passare da un treno all'altro mi scombussola. E mettiamo un asterisco su questa parola presentazione, che ci torneremo poi nel corso della puntata. Radio24.it è il nostro sito, da lì potrete scaricare il podcast e trovare tutti i contributi extra, oppure la nostra pagina ufficiale di Facebook, Padri Eterni, anche lì tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Il tema che abbiamo scelto oggi è un tema bello, poetico, suggestivo, un tema quotidiano, un tema anche che ci salva spesso, no? Perché proprio a loro ci rivolgiamo quando non sappiamo più a chi rivolgerci. Tutto ciò è riassunto in questo spot. Pronto? Mamma, non dovevi venire tu a prenderli a scuola? Non posso, lo sai che alle 4 c'ho palestra. Ma mi sei dimenticato il mio compleanno? Ah, auguri! Sai com'è qui in vacanza? Auguri anche alla nonna, ciao! Allora vengono i nonni? Ho capito, non vengono. Papà, perché la domenica veniamo sempre a mangiare dai nonni? Così non cuciniamo, non ti preoccupare. Buona domenica! Anche a voi! Ma dove andate, scusate? È domenica, usciamo! E quindi non mangiamo? E mica possiamo cucinare sempre per voi. Ma papà! Ma è tutto uno scherzo! Il 2 ottobre è la festa dei nonni. Ricordiamoci quanto sono importanti. I nonni ci sostengono, sosteniamoli. Il 2 ottobre era la festa dei nonni, siamo partiti proprio da quella, in quell'occasione per presentarla e pensare alla puntata di oggi, quindi parliamo di nonni, del rapporto tra padri e nonni, e abbiamo il piacere anche di avere quello che è stato il testimonial di questa giornata, di questa campagna. Diamo il benvenuto al comico Giovanni Vernia. Ciao Giovanni. Ciao Giovanni. Ciao Matteo, ciao Federico, ciao radioascoltatori di Radio 24. Sentilo, sentilo, vedi che già... Giovanni, hai passato un po' di ore in mezzo ai nonni, vero, in questo periodo? Beh, ho passato sì tantissime ore in mezzo ai nonni, perché per girare questo spot, ragazzi, siamo stati addirittura in un centro anziani, che sono meravigliosi, perché ci sono delle realtà che io non avevo ancora visto, mai visto, mm-hmm. A Roma, sono stati in questo centro anziani alla fine di luglio, dove c'erano 45 gradi alla periferia di Roma, e loro ballavano di pomeriggio e non c'era aria condizionata. C'era una vitalità, un'energia, i nonni, che noi ce la dimentichiamo, sì. Ma veramente. Fra l'altro non so neanche come facessero a sopravvivere lì dentro, perché io stavo veramente grondando sudore da tutte le parti e loro invece ballavano felici, senza fermarsi. Guarda, sono due i momenti in cui i nonni scatenano tutte le loro energie, che sono appunto o nella balera o comunque là dove c'è possibilità di mettersi in gioco, oppure quando sono con i nipoti, perché anche lì si scatenano, esatto, trasformano. Sì, poi io ho due bimbi piccoli e noi, cioè, diciamo, lo spot che avete fatto sentire, che è più, diciamo, è poco radiofonico alla fine, no? E va visto, insomma, è più da vedere, no? Perché ci sono delle immagini che sono un po' ironiche, no? Cioè, io ho immaginato un mondo al contrario, dove ci sono questi nonni di cui noi tutti ci approfittiamo, a volte involontariamente, perché diamo certe cose per scontate, e dove invece in questo spot sono degli stronzetti come noi, no? È una vita normale. Ma poi lo vogliamo dire finalmente un bel grazie ai nonni, nel senso che, diciamoci la verità, noi ci raccontano sempre questa cosa, che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, che in realtà è una grandissima balla, possiamo dire la verità. L'Italia è una repubblica fondata sui nonni. Assolutamente, perché senza i nonni l'economia del paese andrebbe a rotoli, credo. No, d'accordo con te, sì, guarda, è una cosa impressionante, anche dal punto di vista economico addirittura, no? I nonni sono veramente un sostegno delle famiglie oggi in Italia, proprio dal punto di vista economico, cioè spesso le famiglie magari non riescono ad arrivare per davvero a fine mese, e ci sono i nonni che, nonostante abbiano delle pensioni molto piccole, però riescono a tirare sempre fuori qualcosa per aiutare i figli, per aiutare la famiglia. E poi quando in una società dove sempre di più, quando c'è lavoro, mamma e papà lavorano, 7 volte su 10 i cosiddetti babysitter sono proprio i nonni, quindi ci si appoggia a loro per questo aiuto pratico e quotidiano. E sono una risorsa a costo zero, come ben diceva Giovanni, perché senza nonni che vanno a prendere i figli a scuola e li riportano, li tengono il pomeriggio, ci fanno rifiatare i weekend, li portano al parco, cioè noi saremmo veramente rovinati. Sì, si bloccherebbe proprio un il sistema paese. Per fortuna che poi ogni tanto vanno a ballare, nel senso che però anche questo è un rapporto, e ne parleremo oggi in questa puntata, dove insomma tra padri e nonni insomma anche lì bisogna mettere delle regole, bisogna coordinarsi, perché diventa anche un po' una gara che è l'educatore più bravo, a chi lo vizia di più, insomma può essere territorio anche quello di conflitto. E poi appunto la domenica arrivi sperando che ci sia già il pranzo pronto, invece Giovanni non è sempre così. No, diciamo che appunto lì nello spot abbiamo usato un po' l'ironia, no? L'umorismo, per far arrivare un messaggio che di solito ricordiamoci dei nonni, questo è il messaggio, no? Perché non ricordiamocene solo quando ci fanno comodo. È vero. Perché ci fanno comodo e lo facciamo vedere. Cosa succederebbe se i nonni si ribellassero? E quindi questo era uno spunto di riflessione un po' divertente per fare uno spot a sfondo sociale, qual era quello per cui sono stato chiamato a fare il testimonial. Insomma, non diamoli per scontate, perché cioè, non è scontata la loro disponibilità, non è scontata la loro presenza, c'è anche questo rapporto va coccolato, va curato, va costruito, e oggi cercheremo di capire come. Poi c'è anche nonni fantastici, leggo questa notizia, per esempio a Cernobbio ci sono i nonni che si sostituiranno al professore di educazione fisica in una scuola media e insegneranno a giocare a bocce. Ci sono anche così dei colpi di tacco inattesi. Cosa hai fatto oggi a scuola, figlio mio? Ho giocato a bocce. Ma è bello anche questo, guarda, secondo me le bocce sono uno sport grandemente tecnico, assolutamente. Bocce, sì, hanno un'esperienza, i nonni in bocce è veramente da insegnare, perché sono i più bravi loro. Io li vedo sulla spiaggia quando vai al mare, sono meravigliosi loro. Giovanni, grazie davvero per esserti messo in gioco. GiovanniVerni.it, però ti vorrei salutare, siamo in radio, quindi viene meno il bello, però ti abbiamo visto nei tuoi video su YouTube, milioni di visualizzazioni. Ci sono anche quei vecchi che poi non si sentono così tanto nonni, tipo Gianluca Vacchi. Enjoy ragazzi, enjoy tutti. Io sono un vecchietto, ma ho sempre la voglia di vivere. E scusate, adesso sono a Miami e devo ballarmi Despacito sulla spiaggia. Enjoy a tutti. Enjoy a te, ciao Giovanni. Ciao. Ciao. E a ritmo di musica andiamo a seguire le informazioni sul traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni. Stop! Com'era questa? Sì, strepitoso come sempre, sei un grande. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... Padri Eterni. Spegnendo il cielo, è l'ira dell'ira. Il Quinto Rigo con questa canzone dedicata ai nonni ci accompagnano in questo pezzo di puntata dove entreremo un po' nel vivo della questione, Matteo, questi nonni che educano, viziano, ci sono, a volte insomma sono più scalmanati loro dei figli stessi. E lì il padre è in mezzo, deve cercare di conciliare, deve cercare a volte di tirare la corda, a volte di far finta di non vedere, altre volte ancora assecondare. Insomma, per avere qualche istruzione abbiamo convocata un'esperta. Diamo il benvenuto a Elena Urso, che è pedagogista dello studio Rossini Urso, insieme alla collega Elisabetta Rossini, questo studio milanese di consulenza familiare. Ciao Elena, buona domenica e benvenuta ai Padri Eterni. Grazie, ciao a tutti. Ciao Elena. Allora, dove si collocano questi nonni e soprattutto con che occhi dobbiamo guardarli noi padri? Allora, noi abbiamo una grandissima passione per i nonni, quindi ci denunciamo subito e lo diciamo, nel senso che sono una grandissima risorsa per molti motivi. Sicuramente per i nipoti, proprio come tipo di relazione, che è una relazione tutta particolare, che ha a che fare sì sicuramente con l'educazione, ma molto con la sfera affettiva, per cui sono proprio spesso dei confidenti, dei compagni di giochi, degli osservatori con un occhio molto diverso da quello dei genitori, per cui da questo punto di vista davvero sono preziosi. La parte effettivamente più complessa e delicata è quella del rapporto con invece i genitori, perché sì, i nonni effettivamente si sentono genitori eterni, potremmo dire, un po' di tutti, sono delle grandi madri e dei grandi padri, per cui non smettono di essere genitori dei propri figli ormai adulti, e quindi si sentono di poter sempre insegnare qualcosa da una parte. Dall'altra i genitori rivendicano appunto il loro ruolo. Infatti quindi siamo passati dai padri eterni ai nonni eterni, abbiamo già fatto un salto generazionale, un upgrade. Tra l'altro stavo pensando che noi padri spesso diciamo non dobbiamo prevaricare i figli, non dobbiamo schiacciarli, non dobbiamo caricarli di troppe aspettative. Sì. Questa stessa cosa noi padri la dobbiamo fare nei confronti dei nostri genitori, dei nonni. Esatto. No, ma soprattutto non dobbiamo pensare di poter essere troppo direttivi con i nonni, cioè noi in realtà quando interveniamo, quando ci sembra che facciano qualcosa che non rientri nelle nostre corde, nella nostra linea educativa, o che siano particolarmente invadenti, o spesso si dice dei nonni fanno tutto, poi quando tornano a casa è impossibile tenerli, in realtà si potrebbe guardare con un occhio semplicemente più benevolo. L'autorità dei genitori non è quasi mai messa in discussione da quella dei nonni, a meno che non lo facciano esplicitamente dicendo qualcosa di assolutamente inopportuno, ma nella relazione col nipote raramente possono minare il rapporto tra genitori e figli, per cui sì, le richieste in genere sono molto alte da parte dei genitori, senza rendersi conto qualche volta che o i nonni da una parte sono anche anziani, nel senso che tutte quelle cose che vengono richieste, sì, poverine, loro ce la mettono tutta, però poi devono fare i conti con quello. Dall'altra, che hanno comunque una loro formazione e forse è più facile per noi che siamo in mezzo essere un po' elastici che non per loro. Poi credo che si sia persa un po' l'abitudine a parlare, nel senso che si danno per scontate tante cose proprio perché sono i nostri genitori, ma qualche volta è più semplice di così, magari qualche volta basta proprio parlare, chiedere, dire esplicitamente che cosa ci sta bene e che cosa no e vedere qual è la reazione, insomma. Elena, io avrei una domanda per te, sì, una cosa che mi interessa molto, no? Nel senso che per quella che è la mia esperienza io ho notato che i nonni hanno un tipo di relazione con i nipoti e un tipo di relazione completamente diversa con i figli. Sì. Diciamo che per noi figli, quindi per noi genitori, in qualche modo i nonni sono coloro che ci suggeriscono per i nostri figli tutti gli errori che loro hanno già fatto con noi, il che è una specie di paradosso, e quindi questo ci crea magari a volte delle difficoltà. Ma quello che io ho imparato osservando, quello che mi sembra di avere capito è questo, e di questo ti chiedo conferma: mi pare che i nonni e i bambini, come dire, parlino la stessa lingua perché sperimentano allo stesso tempo. Cioè vivono nel presente molto più di noi. Noi siamo costantemente proiettati in avanti, nel futuro, a immaginare le cose che succederanno, a progettare. Invece sì, i bambini e i nonni ho l'impressione che vivono più nel qui, che sia questa la loro corsia preferenziale comunicativa. Sì. E infatti ha detto una cosa, oltre che molto precisa, molto importante, nel senso che è quello che dicevo prima rispetto alla relazione nonni-nipoti, che è una relazione tutta particolare e probabilmente alla sua radice esattamente in quello che dici tu. Parlano, nonostante sia difficile da comprendere data il divario di età, però è vero che parlano lo stesso linguaggio. E il discorso del tempo è fondamentale, anche perché, proprio perché non hanno un ruolo prettamente educativo, questa necessità del progetto, del guardare avanti, non li attiene e quindi possono davvero rimanere nel presente, nel qui e ora con il bambino e rispondere appunto con un linguaggio adeguato alle richieste, alle sollecitazioni, anche semplicemente allo stare con i bambini. Sono molto più capaci di noi di stare e basta, senza dover fare, doverli animare, dover necessariamente inventarsi qualcosa. Quindi sì, la mia risposta è esattamente questo, cioè condividono un tempo e un linguaggio, direi, che non è una cosa da poco. E vi consiglio consulenzafamiliare.com, è il portale dello studio Rossini Urso, perché ci sono anche delle dritte molto concrete. Stavo leggendo queste: i genitori vogliono cenare col figlio, sono dritte anche su regole che bisogna darsi per condividere almeno un momento insieme. Beh, i nonni eviteranno di dare la merenda alle 18:30, cioè proprio mettere anche regole precise, no? Scritte in modo di rendere questa convivenza, ottimizzarla, diciamo. Per esempio, i nonni sono stanchi, possono guardare un cartone animato in più con i nipoti, insomma, accendiamo questa televisione. Se non vogliamo farlo per i figli, facciamolo per i nonni. Grazie davvero, Elena. Alla prossima. Ciao, buona domenica. Grazie a voi. Ciao, buona ciao. Domenica. Ciao. Un vecchio e un bambino si presero per mano e andarono insieme incontro alla sera. La polvere rossa si alzava lontano e il sole brillava di luce non vera. L'immensa pianura sembrava arrivare fin dove l'occhio di un uomo. Vabbè, insomma, lo sappiamo, è una scelta musicale un po' scontata, però insomma, Guccini è sempre Guccini, quindi ci piaceva averlo con noi in questa puntata. In una puntata in cui si parla di nonni era indispensabile questa canzone. E con questa canzone andiamo a toccare un tema particolare del rapporto con i nonni, però un tema che alla fine coinvolge tantissimi dei nostri ascoltatori, ed è il tema legato al passaggio di generazioni in azienda, quindi aziende che passano da quello che è il nonno al padre, no? Adesso, se il punto di vista è quello dei nipoti, che noi pensiamo ai figli, comunque da padre in figlio questa azienda che passa, che è sempre comunque un momento di cambiamento, di trasformazione, un momento che attiva dinamiche complicate per ovvie ragioni. E tutto ciò lo facciamo con una esperta del settore, psicologa, consulente e formatrice aziendale. Diamo il benvenuto ad Alessandra Bussi Moratti. Buongiorno e buona domenica. Buongiorno e buona domenica a voi. Allora, è un momento complicato quello del passaggio generazionale, è sempre un momento complicato, ci sono anche passaggi generazionali, mi viene da dire così, che si fanno in allegria. Ma in allegria è difficile trovare dei passaggi generazionali, sono momenti comunque molto delicati e complessi di solito, perché per gli attori coinvolti è un processo di forte tensione conflittuale, in quanto vengono messi in gioco equilibri che fanno parte, analizzandolo ovviamente dal mio punto di vista essendo psicologa, fanno parte di un sistema valoriale ed emotivo relazionali tipici proprio di quella famiglia impresa, che sono appunto già di per se stessi delicati e fluidi. Ed è proprio in questo momento che vengono messi in discussione tutti quei valori, tutte quelle regole, aspettative, bisogni e norme che normalmente sono condivisi da tutti i membri della famiglia, ma che durante il passaggio generazionale possono creare una disarmonia relazionale, ma anche emotiva, tra gli stessi componenti. Si attivano discussioni, si attivano delle dinamiche relazionali, cioè comportamentali particolari, che sono molto delicate e devono essere tenute sotto controllo, proprio perché il passaggio generazionale è di per sé stesso un processo psicologicamente significativo per l'imprenditore, in quanto si incontra con un movimento interiore profondo, e cioè con le proprie emozioni. E uno si potrà domandare: ma che cosa sono queste emozioni? Sono degli semplici, tra virgolette, stati mentali che producono poi una certa intensità emotiva e a seconda dell'intensità emotiva evocata all'imprenditore, il passaggio generazionale potrà essere vissuto sia come causa di crescita, ma anche come causa di regressione, come fonte di regressione. E quindi insomma c'è il rischio di mettere in crisi sia i rapporti personali in famiglia, sia l'azienda stessa. E quindi, l'azienda stessa, Il tema è sensibile anche e soprattutto per questo. E dottoressa, ci fermiamo un attimo, proprio un minuto, la pubblicità, poi torniamo immediatamente da lei. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24 RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. I campioni dello sport, le loro imprese, le loro storie, i loro segreti. Scopriteli a Olimpia, la città dello sport, quest'anno con un ospite d'eccezione. Sono Stefano Tirelli, seguiteci qui a Olimpia, alla scoperta delle menti dei campioni. Sono Dario Ricci, vi aspetto a Olimpia, miti e verità dello sport, ogni domenica alle 20:30, qui su Radio 24. Padri Eterni. Ancora buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola. Questi sono i Padri Eterni. Vi ricordo radio24.it, il nostro sito da dove poter poi immediatamente dopo la puntata scaricare il podcast. La stessa cosa ovviamente la potete fare anche nei prossimi giorni. E poi c'è la nostra pagina ufficiale Facebook, lì potete lasciare i vostri messaggi, i vostri commenti, le vostre critiche, i vostri suggerimenti. La stessa cosa la potete fare anche via email. Il nostro indirizzo è padrieterni@radio24.it. Stiamo parlando di nonni oggi, del rapporto tra i padri e i loro padri in questo caso. E in questo momento stiamo toccando un momento fondamentale che è relativo alla vita delle imprese, delle aziende, che è quello del passaggio di generazioni, e lo stiamo facendo con Alessandra Bussi Moratti, che è proprio un'esperta del settore. Matteo, so che avevi una domanda. Sì, Alessandra, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Matteo. Buongiorno, senta, io ho l'impressione che questa difficoltà, diciamo, del passaggio di testimoni sia presente in modalità diverse da ambo le parti. Mi spiego, è presente sia dal punto di vista di chi il testimone lo cede, sia dal punto di vista di chi il testimone lo riceve. Chi lo cede ha naturalmente, come dire, il problema forse anche di accorgersi, che cosa che non è affatto facile, credo, quando è arrivato il momento un pochino di non tanto di farsi da parte, ma di lasciare spazio. Del resto, da parte di chi lo riceve c'è questa rivendicazione di questo diritto di poter fare finalmente le cose alla propria maniera, no? Che poi è un diritto che dovrebbero avere tutti. Mi chiedo come sia possibile coniugare questi due aspetti. E questi due aspetti sono due aspetti fondamentali ma difficili da coniugare se non c'è dall'altra parte una sorta di guida che in qualche modo fa vedere sia al senior che al junior quali sono gli aspetti fondamentali affinché un passaggio di consegne possa avvenire in maniera fluida. Prima di tutto volevo precisare anche che non esiste un momento standard per il passaggio generazionale, nel senso che non si può dire guarda che l'azienda, la tua azienda al giorno tot, alle ore tot dell'anno tot deve avviare il passaggio generazionale. E di solito però lo si fa troppo tardi comunque? Di solito sì, lo si fa troppo tardi perché ancora non c'è il concetto di pianificazione per tempo del passaggio generazionale della propria azienda. È molto difficile far comprendere all'imprenditore l'importanza e soprattutto la criticità di una non pianificazione fatta per tempo della propria azienda. Per cui se l'imprenditore pianifica per tempo con tutti gli attori coinvolti, operatori coinvolti oltre al successore e ai familiari, al management, intendo anche i commercialisti, gli avvocati, i notai, che poi sono quelli che poi dovranno stipulare, no, le varie forme contrattuali di questo passaggio, se non c'è un'unità tra di loro che in qualche modo fanno capire all'imprenditore che guarda, caro imprenditore, è arrivato il momento di incominciare il passaggio di consegne, l'impresa potrà trovare delle difficoltà nel futuro e soprattutto anche nella scelta poi del successore e nella formazione del successore, in quanto a volte la formazione del successore poi viene fatta in malo modo o non tenendo conto proprio delle qualità tipiche di quel membro scelto da successore, che può essere figlio, può essere nipote, oppure può essere anche un manager esterno. Potremmo dire in un certo senso che pianificazione in questo caso è un sinonimo anche di fiducia? Direi di sì, che io infatti trovo, e non mi stanco mai di ripetere quando sono in consulenza presso qualche azienda, e lo dico anche qui adesso a qualche imprenditore sicuramente collegato, sì, di pianificare per tempo il proprio passaggio generazionale, perché è l'arma vincente per il futuro della propria azienda. Insomma, questo è uno slogan che ho voluto lanciare perché lo trovo veramente efficace, ad hoc oggi. Sì. Alessandra, l'ultima domanda, e ai nipoti cosa si dice? Il nonno si fa un attimo da parte, il nonno continua ad esserci, però no, o non si dice niente? Ai nipoti normalmente se si attiva un rapporto cogenerazionale, cioè dove sono, spesso si trovano, sono poche le aziende, però adesso incomincia finalmente ad entrare in quest'ottica, molte imprese entrano in quest'ottica, a fare in modo che nella plancia di comando ci siano presenti tutte le varie figure, cioè appunto dai nonni ai figli e ai nipoti. È una modalità che incomincia a prendere piede e devo dire che si trovano bene, anche perché i nipoti possono apprendere dai nonni quello che a loro volta i loro padri hanno insegnato e che gli hanno trasmesso, così a loro volta i figli trasmetteranno ai loro figli e così via. Quindi questo processo di fondatore, erede, eccetera, eccetera. Ottimo gioco, esatto, gioco di squadra, sì, trasversale. Gioco di squadra, sì. AlessandraBussimoratti.it, questo è il sito. Grazie davvero per essere stata con noi. Buona domenica. Grazie a voi e buona domenica. Adesso è il momento di aprire le orecchie, perché? Perché c'è il consiglio che i ragazzi e le ragazze, uno per puntata, cerca di dare a noi padri. Siamo insieme a Tommy, sentiamo un po' cosa ha da dirci. Cari papà, dovete sapere, puzzolina, che quando si crea quel silenzio imbarazzante in macchina, o quei momenti in cui non c'è niente da dire a pranzo e siamo da soli, o in qualunque altra situazione, non ci sia un argomento, non per forza dovete tirare fuori la ragazza e com'è la situazione con le ragazze, perché non è piacevole. Ci sono due motivi. Primo, bisogna accettare questo patto di corresponsabilità, che noi a cose fatte vi diciamo quello che è successo e a che punto siamo arrivati e tutte le cose come stanno a cose fatte, ma fino a quel momento non riusciamo a fare da soli. Non è per un'offesa, ma davvero non c'è bisogno di voi. La seconda cosa è molto più imbarazzante del silenzio che lo precedeva questo discorso, perché sapete, parlare di ragazze è una cosa molto limitata al migliore amico, o nel caso delle ragazze immagino alla migliore amica, quindi non preoccupatevi di questo, potete pure lasciarlo stare. È vero, come creare imbarazzo per evitare un altro imbarazzo. Non... Sì, sì, beh, io evito direttamente l'argomento avendo tre figlie femmine, è una cosa che spero di procrastinare il più lungo possibile. Quando le interrogo sui fidanzati, le mie tre bambine mi parlano dei loro fidanzati immaginari, perciò per ora mi accontento. No, ti prendono in giro, già. Assolutamente, ma sì, poi sì, sono terrificanti i discorsi sui maschi che già fanno le bambine di 4 anni e di 6 anni. Ho intercettato una discussione fra le mie due figlie in camera, in cui la figlia più grande, Virginia, che ha 10 anni, diceva: ma insomma io farei un fidanzato che mi capisse, ma anche che mi lasciasse spazio, ma anche che fosse comprensivo, ma anche che fosse forte, elencando tutta una serie di qualità. E Ginevra, che è più piccola, ha detto: io invece vorrei solo cambiare fidanzato perché il mio è stupido. Ecco, punto. Noi invece stavo pensando appunto a Tommy che diceva: vi diciamo poi le cose a cose fatte. No, non è vero, cioè, proprio non le dicono quando sono poi, esatto, un po' più grandicelli, ma giustamente anche, no, ci siamo passati tutti. Adesso è il momento invece di un ospite d'oltreoceano, è un manager, si chiama Christian Baretti, è un 43enne bergamasco di Sante Omobono Terme, responsabile finanziario di un'importante multinazionale italiana per l'area Nord America, e l'ho invitato perché? Perché in questa puntata in cui si parla di padri e nonni, lui che risiede in Michigan negli Stati Uniti dal 2005, ha due figli e ha pensato: i miei bambini non possono frequentare i nonni, quindi non possono conoscere quel sapere di una volta. Quindi lo racconto io attraverso una favola, e quindi ha pubblicato un libro, Piroetta e la trottola magica, che è in vendita su Amazon, e appunto ha trovato un modo per trasmettere questo sapere antico. Ciao Christian, benvenuto ai Padri Eterni. Buongiorno, ciao Christian. Buongiorno Federico. Allora, già un manager che trova il tempo per scrivere un libro, per scrivere una favola, ci piace. Quando l'hai scritto? Ho scritto il libro 2 anni fa, ovviamente il tempo è sempre limitato, quindi ho cercato di ricavare qualche, diciamo, mezz'ora qua e là durante il fine settimana o la sera. Mm-hmm. E grazie a mia moglie sono riuscito a trovare il tempo anche da dedicare alla scrittura di questo libro. Piroetta e la trottola magica, perché è la trottola la grande protagonista del tuo racconto. Esatto, sì, la trottola è la grande protagonista del racconto. E in pratica qui c'è una piccola storia dietro il libro. Da piccolo mio padre, il quale era responsabile della produzione di un'azienda del legno nella valle, sì, aveva prodotto delle piccole trottole per darsi una dimostrazione di quelli che erano i suoi giocattoli di quando lui era bambino. Quindi ci portò a casa queste trottole, ne giocammo, e successivamente pensai che, per continuare la tradizione e trasmettere questa idea, pensai di scrivere un libro appunto con il protagonista le trottole, per trasmettere ai miei figli questa tradizione, insomma. Ascolta, ma hai pensato di più ai tuoi figli o hai pensato più a tuo padre in quel momento? Cioè, perché l'hai fatto, in verità? Sì, la ragione è che ho voluto creare un collegamento tra, diciamo, il mio passato e tra la mia infanzia e l'infanzia dei miei figli. Quindi, i miei figli sono americani, sono nati in America e non hanno avuto la possibilità, ovviamente, di andare in vacanza in Italia, ma non hanno mai avuto la possibilità di vivere quotidianamente nella realtà in cui io sono cresciuto. Quindi non conoscono i luoghi, non ho potuto spiegare ai miei figli le varie storie della mia infanzia, quindi far vedere i luoghi, spiegare qui andavo a giocare a calcio con gli amici, qui andavo in palestra, eccetera. Quindi il libro aveva come obiettivo appunto quello di creare un legame tra questi due mondi e creare un interesse anche, che spero poi maturerà negli anni seguenti, per riscoprire appunto la mia infanzia, il mio mondo che per i miei figli è fondamentalmente sconosciuto. Mi piace molto quello che hai fatto, Christian, perché, come dire, forse è questo il raccordo di cui parlavamo prima, no? Il passaggio di testimone. Solitamente i figli nei confronti dei genitori, dunque i genitori nei confronti dei nonni, si pongono in rapporto conflittuale. Invece riuscire a riconoscere che c'è un'eredità, che c'è un qualcosa che vale la pena di passare dal nonno al nipote, mi pare una questione nodale. Eh sì, poi insomma si è messo lì, ha scritto, la sai costruire anche la trottola? No, purtroppo no? È per questo che non ho, mi dedico, sono passato a tutt'altro settore, quindi sono più, mi dedico più che altro ai numeri e non sono, potrei impararlo, potrebbe essere una, se troverò il tempo potrebbe essere una cosa che farò magari in futuro, cercare di produrle e vedere se riesco a rifare quello che mio padre e mio nonno a suo tempo anche facevano. Piroetta e la trottola magica, in vendita su Amazon. Un grazie a Christian Baretti. Ciao e buona domenica, Christian. Grazie a te. Buona domenica. Noi ci fermiamo adesso, il traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni. Faircam Distribution, spedizioni in Italia ed Europa su misura. Faircam.com vi presenta. Padri Eterni. Eccoci qua, Padri Eterni, l'ultimo blocco, però un blocco in tenso. Parliamo di felicità, perché comunque, dai, un padre felice credo che sia sicuramente un qualcosa di auspicabile. Ed è un ospite, quello che ti presento tra un attimo, che è sia padre che nonno, quindi è proprio la sintesi della puntata di oggi. Diamo il benvenuto all'attore, scrittore e comico Gioele Dix. Ciao Gioele! Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ciao Gioele, buongiorno. Voglio essere figlio di un uomo felice, questo è il titolo dello spettacolo che hai realizzato, con cui sei in tour. Anzi, diamo subito la data, il 28 ottobre a Saronno, poi la tournée riprende da gennaio ad aprile, dopo una breve pausa, 19, 20, 21 febbraio, date al Franco Parenti qui a Milano, gioeledix.it per avere l'intero calendario, così avete preso nota e potete seguire la chiacchierata. Chi è questo uomo felice, questo padre felice che racconti? Dunque, intanto è, per essere precisi, vorrei essere figlio di un uomo felice. Mm-hmm. Ed è importante questo vorrei piuttosto che voglio, perché è un progetto, un'aspettativa, una speranza che non ha quasi mai scusate il bisticcio, la speranza di essere realizzato. Questa frase sorprendente è detta da Telemaco nell'Odissea, nel primo canto, quando di fronte alla dea Atena, travestita come era sua abitudine da qualcos'altro, lo interroga sul padre. Lui è figlio di questo grande eroe che non torna a casa, il grande Ulisse, e lui dice: io non so bene che padre ho, perché ne ho solo sentito parlare, mi pesa la sua assenza, è ingombrante per la sua assenza, e spesso i padri sono ingombranti per la loro assenza. Però quello che so è che vorrei essere figlio di un uomo felice, mentre mi pare di capire che mio padre è tutt'altro che felice, perché è in giro senza pace, non trova la via del ritorno. In realtà il padre non è poi così infelice, perché è da 7 anni fermo nell'isola di Ogigia con la dea Calipso, che è una gnocca, se mi passate il termine, non omerico, che lo ama e lo concupisce. Però è vero anche che dopo un po' il ritorno a casa è desiderabile, ma soprattutto questo passaggio è fondamentale nel mio spettacolo per innescare il tema della felicità padri e figli, ovvero di quanto noi ci portiamo addosso il peso del destino dei nostri padri, e quanto quindi sarebbe bello scoprire che i nostri padri sono o sono stati felici. L'ha individuata dove sta la felicità di un padre? Dunque parlo del mio caso. Nel mio caso mio padre ha avuto un'infanzia complicata, e quindi forse ha trovato la felicità nel momento in cui è riuscito a mettere su famiglia, è riuscito a proiettare se stesso in me. Quindi voi immaginate già come può essere pesante il sapere, uno non lo sa all'inizio, ma insomma poi quando se ne rende conto, sapere di essere in qualche modo la proiezione del desiderio di felicità. Io credo che siamo un po' tutti destinati a immaginare che la felicità sia sempre un obiettivo che raggiungeremo, ma che per il momento non abbiamo raggiunto. Quindi io credo che lui abbia trovato un certo equilibrio nel momento in cui sono entrato in scena io, e questo è un po' quello che succede a molti padri, di trovare una quadra quando... Infatti io spesso dico a tutti i padri giovani, ai giovani che non vogliono diventare padri, gli dico: guardate che, come anche la mia esperienza, io sono diventato padre piuttosto giovane, guardate che sembra angosciante l'idea, oddio come farò, invece paradossalmente è una scossa fantastica, cioè ci ritrova molto più saldi di prima. Questo è vero. Ma tu ti colloqui tra i padri assenti o tra i padri presenti? No, io sono stato un padre presente, o perlomeno mi sono sempre raccontato che non conta la quantità ma la qualità, siccome io sono sempre stato in giro. Ho potuto dare una presenza intermittente, però molto intensa quando c'ero. Onestamente però mia figlia, per esempio, verso i 10-12 anni mi ha un po' scioccato, perché mi ha detto: io non ti vedo mai. E quindi, siccome io la interrogavo sul perché non mi aveva raccontato una serie di cose, nascondendomi un sacco di cose, anche guai, magagni a scuola, eccetera, e lei mi disse: perché non ti vedo mai. Quindi mi diede una botta a tutte le mie convinzioni. Come dire, non sono sicuro di niente. Credo di essere stato abbastanza presente, ma ho capito che anche la presenza spicciola, quella di tutti i giorni, tanto è vero che io da quel momento feci salti mortali anche solo per portarla quei 4 minuti in macchina. Quanto ti capisco. A casa, a scuola. Quanto ti capisco. Per 4 minuti. Anche perché, appunto, come ha fatto tua figlia, le cose poi sanno come farcele arrivare quando vogliono. Io facevo addirittura dei giri più larghi per stare 6 minuti invece di 4, perché purtroppo la scuola era a 2 passi da casa. Prendevamo la macchina così per stare magari per chiacchierare un po'. Però diciamo che alla fine il bilancio è stato buono, perché mia figlia è molto legata a me, io sono molto legata a lei, quindi insomma ne siamo usciti abbastanza bene. I temi che sollevi, Gioele, mi sono molto cari, devo dire, perché a proposito di felicità dei padri, io mi sono licenziato da un posto fisso in comune per fare i fumetti, che è una cosa che chiaramente ha avuto una grossa ripercussione anche dal punto di vista economico inizialmente, però le mie figlie hanno potuto sperimentare un papà sorridente tutte le mattine, e quindi credo che quella felicità che cerchiamo forse si annidi anche nel fare davvero quello che ci piace, no? Senza guardare tanto il tornaconto. Questa credo che sia una grande risorsa, sia per i figli che per i padri e che per i nonni. E Gioele, invece, per chiudere appunto la puntata di oggi, che nonno sei? Beh, dunque, quella bambina di cui parlavamo è diventata mamma di tre bambini a sua volta. Io sono un nonno, mi viene in mente Gaber che diceva: i nonni dei fiori, perché quelli che insomma non sono in, con le collanine, che fanno le collanine ancora a 60 anni. Diciamo, ho accettato l'idea di diventare nonno, perché il termine nonno fa sempre pensare un po' al vecchietto, così, no? Uh-huh. E in realtà invece sono stati soprattutto i miei nipoti, la prima, che è quella con la quale ho una relazione, Sara, che mi ha coinvolto nella sua vita, mi chiama, mi cerca, le interessa quello che faccio, quindi sono un nonno, diciamo, spiazzato piacevolmente dall'intraprendenza dei miei nipoti, e mi faccio coinvolgere dalle cose che fanno. Non sono un nonno ancora da panchina, da bastone, per fortuna, e spero di conservarmi in forma. però l'etichetta di nonno spiazzato mi piace, proprio è bella, dà l'idea. Anche un po' spiazzato io dal fatto di essere diventato nonno, lo confesso. Vabbè, quello fa parte del gioco. Può dire. Sì, perché per un po' naturalmente fa anche piacere dire sono nonno di, però tutto sommato il nonno è sempre stato un po' dall'idea del vecchietto sulla sedia a dondolo che si addormenta davanti alla televisione. Insomma, io mi addormento davanti alla televisione, ma senza sedia a dondolo, non sulla sedia a dondolo. Insomma, meglio nonno spiazzato che nonno spiaggiato. Anche quello è vero. Sì, molto bello. Grazie per la gioia, Dix. Vorrei essere figlio di un uomo felice, vi ricordo, questo è il titolo del suo spettacolo, 28 ottobre a Saronno, da gennaio poi in tour, joeledix.it per tutte le informazioni. Ciao e buona domenica. Grazie a voi, un abbraccio a tutti. Grazie anche a tutti voi per essere stati in nostra compagnia, un grazie a Filippo Aureggi oggi alla parte tecnica e a Miriam Lucchetti che con noi ha scritto la puntata. Radio24.it il nostro sito, poi c'è la pagina ufficiale di Facebook, lì trovate tutti i link relativi agli argomenti che abbiamo toccato. Mentre domani, Matteo, c'è un appuntamento importante alle 18.30 qui a Milano in Piazza Duomo, avrò il piacere di presentare il libro di Matteo, Sono puri i loro sogni, quindi saremo insieme al tuo pubblico. Sei un po' emozionato? Sono molto emozionato, anche perché insomma siamo stati insieme oggi, staremo insieme anche domani, ormai fra un poco siamo una coppia di fatto. È vero. Chiudiamo con la lettera di Matteo. Oggi è la giornata dedicata alle ragazze e ai ragazzi con la sindrome di Down, e questa lettera è pensata anche per loro. Lettera aperta a un papà che è nato. Caro padre single, sì tu, proprio tu, che questa settimana hai scelto di adottare una bambina affetta da sindrome di Down dopo che sua madre l'aveva abbandonata in ospedale e 7 coppie l'avevano scartata per l'adozione. Tu, che ora dovrai scontrarti per il resto della vita contro 2 pregiudizi insieme, quello di chi vorrà farti credere che la tua bambina è una disabile e quello di chi ti dirà che in quanto padre single non sarai abbastanza, perché per fare una famiglia ci vogliono sempre un papà e una mamma. Invece a volte, come questo caso ha dimostrato, non è affatto detto, e un papà da solo può contenere tutto l'amore che serve. Soprattutto se quell'amore non si ferma a guardare quel che manca, ma si concentra su quel che c'è. Solo questo occorre, perché i figli sono di chi li vuole, non di chi li valuta sulla base delle loro presunte abilità. Chi decide quali valgano più di altre? Saper nuotare conta di più o di meno di saper rincorrere i dinosauri? È più importante saper giocare a calcio o saper salutare le margherite? Ragionare veloci vale di più di saper abbracciare? Chi ha frequentato bambini con la sindrome di Down sa per esempio che abbracciano fortissimo, molto più degli altri, come se non volessero lasciarti andare più. In realtà sei tu che non lasceresti più andare loro, perché ogni giorno ti insegnano che forse, i veri disabili, siamo noi, quando non riusciamo a vedere le persone oltre le etichette e le categorie. Caro uomo single, questa settimana tu sei nato come papà e una bambina è nata come figlia. Sarà tutto quello che vi serve. Sarà abbastanza.